Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Impugnate subito la cornetta del telefono e formulate l'800240024, perché anche oggi torniamo sul tema del condominio e, come sempre capita quando ci occupiamo di questo argomento nel nostro programma, le telefonate sono sempre un po' più del solito. È un tema che vi scalda molto, affrontarlo anche banalmente in radio, non solo in assemblea, che è sicuramente il luogo dove gli animi si scaldano molto frequentemente. Allora, noi oggi abbiamo il quarto appuntamento con i giovedì del condominio. Torniamo ad approfondire le novità introdotte nelle case comuni degli italiani dalla riforma che è entrata in vigore il 18 giugno scorso. Ci sono dei cambiamenti importanti, per esempio per quanto riguarda le tabelle millesimali, che sono quel parametro che stabilisce e sintetizza la nostra quota di proprietà. Le tabelle che sono modificabili solo alla unanimità. Nuove regole riguardano anche i registri condominiali tenuti dall'amministrazione, la durata dell'incarico e il compenso dell'amministratore stesso. Quindi oggi focalizziamo la nostra attenzione su questi punti e chiaramente risponderemo in diretta alle vostre domande. Vi ribadisco il numero verde 800240024, ma sapete bene che avete anche tutta un'altra serie di canali per interagire con noi. Il 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. Ci potete scrivere al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Potete andare anche a curiosare su Facebook, il nostro profilo è salvadanaio-radio24, e twittare le vostre considerazioni. Siamo anche su Twitter @salvadanaio24. Con noi questa mattina è il dottor Fabio Gerosa, direttore del Centro Studi Anaci di Roma, che saluto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E buongiorno anche e benvenuto all'avvocato Enzo Ferrarese, che dell'Anaci è componente del Centro Studi Nazionale. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Noi diamo per scontato che gli ascoltatori sappiano che cos'è l'ANACI, ma per chi non lo sapesse, lo ribadisco, è l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Allora, prima di tutto questo, chiaramente dobbiamo anche un po' curiosare sull'andamento della giornata di borsa. Dopo i recuperi degli ultimi due giorni, oggi la borsa europea si prende una pausa. Abbiamo una situazione leggermente positiva a Parigi e a Francoforte, più 0,12 e più 0,19%. Fino a poco fa anche questi due listini erano intorno alla parità. Un po' più consistente il rialzo di Londra, la City segna più 0,42%. Era negativa di oltre un punto Madrid, Milano adesso è proprio ferma sulla parità. Milano ieri aveva recuperato parecchio, nel giorno precedente invece non si era accodata alle altre borse europee che erano in recupero. Milano un po' più in tensione, anche perché è stata una settimana molto intensa e fitta di impegni sul fronte obbligazionario. Oggi terza asta da parte del Tesoro italiano, forse quella più attesa, perché il Ministero dell'Economia ha collocato scadenze un po' più lunghe degli ultimi giorni, BTP a 5-10 anni. Ed esattamente come è successo con gli ultimi appuntamenti con il mercato, i rendimenti richiesti stamattina anche per questi titoli sono stati più alti. Per il BTP a 5 anni il rendimento è stato del 3,47%, dal 3% del collocamento di maggio. Per il BTP a 10 anni rendimento è stato del 4,55%, dal 4,14% dell'asta di maggio. Quindi sono lievitati i rendimenti anche su queste scadenze. Ricordiamo che ieri per il BOT a 6 mesi addirittura il mercato ha chiesto un tasso doppio rispetto all'ultima asta. Mediaset è il miglior titolo di Piazza Affari, più 4,89%, Salvatore Ferragamo più 2,32%, Ansaldo più 1,85%, Telecom più 1,67%. Questo per soddisfare le vostre curiosità sui titoli più gettonati questa mattina. Il mercato invece oggi vende la Popolare dell'Emilia Romagna, che perde il 2,64%, Mediobanca a meno 1,90%, in calo di 1,5%, Parmalat e la Popolare di Milano. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, quarto giovedì del condominio. Oggi parliamo di tabelle millesimali e di qualche altro spunto lo avremo anche sul tema dell'amministratore di condominio. Da un paio di settimane i condomini italiani hanno a che fare con le nuove regole della riforma, che è diventata operativa dallo scorso 18 giugno. Tra le novità ci sono quelle che riguardano le tabelle dei millesimi, le unità che misurano un valore proporzionale per ciascun alloggio, che si utilizzano per suddividere le spese e che attribuiscono un peso diverso a ciascun componente dell'Assemblea quando si tratta di votare e di raggiungere un quorum. La riforma interviene stabilendo che queste tabelle possono essere rettificate o modificate all'unanimità, ad esempio nel caso venga individuato un errore, oppure se insorgono condizioni che modificano lo stato dell'edificio. A differenza di quanto accettato finora, l'aver votato in passato rispettando le ripartizioni delle tabelle non può essere considerato, da parte di un condomino assente, come un voto di approvazione di queste tabelle. Tra le tante novità che riguardano la figura dell'amministratore, poi, ci sono gli obblighi relativi alla tenuta e all'aggiornamento dei registri condominiali, che contengono le generalità dei singoli proprietari, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, quelli relativi alle condizioni di sicurezza e molto altro. Cambia anche la durata in carica dell'amministratore. Se precedentemente veniva confermato ogni anno dall'Assemblea, dal 18 giugno il mandato vale per 2 anni senza necessità di rinnovo. La conferma automatica però non significa che l'Assemblea non possa dare il ben servito all'amministratore qualora lo ritenesse opportuno. Rimane possibile convocare un'Assemblea straordinaria con un apposito ordine del giorno. 800 24 00 24, il numero verde su questi temi, se volete intervenire sulle questioni che attengono alle novità della riforma del condominio. Ce ne sono molte, allora cominciamo subito a sentire i nostri ospiti. Volevo cominciare con Enzo Ferrarese, con l'avvocato Ferrarese, componente del Centro Studi Nazionale ANACI, perché lui, diciamo che lo possiamo considerare questa mattina, abbiamo suddiviso le competenze, il nostro esperto per ciò che attiene alle tabelle millesimali. È questo parametro, come dicevo in apertura, che un po' sintetizza la nostra quota di proprietà di un edificio. Molti sono i condomini che aspirano, a quanto pare, ad una modifica della tabella millesimale. Ma sono davvero delle questioni così frequenti, avvocato? Beh, sì, diciamo che ricorre con frequenza la volontà da parte di uno o più condomini di intervenire su quello che è il valore di proporzione rappresentato dalle tabelle millesimali, principalmente per ridurre il quantitativo millesimale del proprio valore e aumentarlo viceversa agli altri. Il caso più frequente di iniziativa di condomini volti a chiedere, se non altro come consulto all'avvocato, prima ancora che giudiziale, perché la causa giudiziale di revisione delle tabelle millesimali è complessa e non è per nulla semplice nel suo contenuto. Infatti. Dicevamo che il consulto all'avvocato normalmente lo si chiede quando insorgono taluni condomini in ordine al cambio di destinazione d'uso, che so, del sottotetto di proprietà esclusiva di un condomino piuttosto che del garage fatto diventare abusivamente in questo caso abitabile, oppure a fronte delle necessarie autorizzazioni edilizie fatto diventare abitabile e vivibile il sottotetto. Quindi ci possono essere, diciamo, delle richieste spontanee di variazione della tabella millesimale, se per esempio magari io, che ero proprietario di un appartamento, ne acquisto uno accanto e allargo un po' la mia proprietà, allora in questo caso è, appunto, dicevo, spontanea. In altri casi una revisione può essere invece su sollecitazione di altri condomini. Esattamente, su sollecitazione di altri condomini, e la riforma in questo frangente è intervenuta in maniera molto incisiva su quella che era stata un'impostazione ritenuta risolutoria nell'agosto del 2010 per l'intervento delle sezioni unite di Cassazione, che notoriamente le sezioni unite intervengono quando vi sono non vi è certezza giurisprudenziale, quindi intervengono per dirimere un contenzioso, certo, interpretativo. Avvocato, ammettiamo che una necessità di variazione sia fatta con l'accordo di tutti i condomini, no? Ammettiamo, appunto, di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea la questione del sottotetto che lei citava prima, quindi sono tutti d'accordo e questa revisione va fatta, però ecco, concretamente poi è molto complicata ristabilire le quote di tutti. Come mai è così complesso questo lavoro? Il lavoro è complesso perché la formazione delle tabelle di fatto è una perizia che deve tenere conto di determinati parametri, è una perizia che deve essere fatta da un professionista esterno, quindi ovviamente deve essere effettuata da un professionista, e non esistendo delle disposizioni legislative certe, questo professionista dovrà attenersi a quelle che sono delle circolari, circolare 12.480 del 1966 e la 2.945 del 1993 di quello che è stato l'ex Ministero dei Lavori Pubblici. Sono indicati quindi tutti i parametri che devono essere presi in considerazione per poter effettuare una corretta redazione delle tabelle millesimali, e quindi ovviamente queste tabelle si fonderanno principalmente in via ovviamente prioritaria su quella che è la superficie reale di ciascuna unità immobiliare. Vi sono poi, queste misure devono essere legate a coefficienti, quindi a parametri di positivi o negativi, che riguardano la destinazione, l'orientamento, la luminosità. A fronte di quello che sono tutti i parametri positivi o negativi rispetto alla superficie, otterremo quello che viene chiamato, che è chiamato il numeratore, a fronte del denominatore, che viceversa è la sommatoria di tutte. Comunque, le insomma, un calcolo piuttosto complesso. Infatti, chi è mediamente il professionista che viene chiamato ad eseguire questo lavoro, avvocato? Normalmente un geometra. Un geometra. Allora, prima di continuare ad approfondire la questione della revisione, se necessario, delle tabelle millesimali, vorrei invece fare due domande al dottor Girosa sul tema di quello appunto che abbiamo scoperto. Parlo come mia nipote, abbiamo scoperto essere l'anagrafe delle informazioni sostanzialmente che ha appunto il nostro amministratore di condominio. Mi è arrivata proprio poco fa, qualche settimana fa, una richiesta da parte dell'amministratore di condominio del mio stabile, che mi chiedeva appunto di compilare un modulo con tutta una serie di informazioni relative alla mia persona. E io pensavo peraltro, dottor Girosa, che le avesse già l'amministratore appunto di condominio, non mi ricordavo bene evidentemente ciò che sapesse di me. A che cosa, perché si è resa necessaria appunto questo aumento di informativa nei confronti dell'amministratore? Allora, l'amministratore diventa di fatto un professionista, per cui la riforma del condominio va a incidere anche sulla sua figura e sulle attribuzioni. In particolare è l'articolo 1130 del Codice Civile, relativo appunto alle attribuzioni dell'amministratore, ed esattamente al punto numero 6, che prevede la tenuta di questo registro, del registro di anagrafe condominiale. Questo deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali, di diritti personali di godimento. Prima non era previsto, non c'era questo registro. Non c'era alcun obbligo, anzi la Cassazione si era espressa in modo difforme nel 2000, aprile 2000, e una successiva sentenza, per cui non c'era certezza. E vedere appunto con questa anagrafe condominiale se vi siano rapporti di usufrutto, nuda proprietà, uso, abitazione o diritto di superficie. Per titolari poi di diritti personali di godimento possiamo intendere gli inquilini e i comodatari. I dati da richiedere sono quelli del codice fiscale, della residenza o domicilio, i dati catastali di ogni unità immobiliare, oltre ai dati che si riferiscono alle condizioni di sicurezza dell'unità immobiliare. Certo. Ecco, per esempio, dottor Girosa, io adesso vivo da sola a casa mia, qualora mi dovessi mai miracolosamente fidanzare o sposare e questa persona venisse ad abitare con me, anche se non cambia poi la quota magari della spesa condominiale, immagino che io devo riconoscere a tutto il resto del condominio, però devo comunicare all'amministratore che c'è questa variazione anche di composizione del nucleo familiare? No, del nucleo familiare non è necessario, almeno quello ci chiedono il codice fiscale, addirittura dell'inquilino, però di un convivente assolutamente. Quindi le informazioni attengono solo alla proprietà, al proprietario? L'abbiamo detto prima, bisogna vedere i rapporti di usufrutto, nuda proprietà, uso, abitazione, diritto di superficie, inquilini e comodatari. Ottimo. Allora, cominciamo a sentire già una domanda, così cominciamo a prendere qualche spunto che magari approfondiremo poi nella seconda parte di Salvadanaio, perché vedo che l'orologio scorre, tra poco devo fare la prima pausa. Però cominciamo con Giuseppe dalla provincia di Firenze, che saluto e benvenuto all'800240024. Buongiorno dottoressa, volevo un'informazione. Nel mio condominio si paga l'ascensore in base all'altezza, sì, anziché pagarlo 50% in base all'altezza, il 50% è millesimo di proprietà. Mi pare anche nel mio, comunque adesso vediamo. Non si può modificare? Perché vuole modificarlo, Giuseppe? Perché lei non lo usa? Non no, le sta bene? No, io lo uso, ma io abitando al quarto piano, io pago quattro parti rispetto a quello che abita al primo piano. Allora, aspetti lì e vediamo se questo conteggio fatto per il suo caso è corretto. Avvocato Ferrarese, è compito suo questo. Buongiorno signor Giuseppe, ma le saprei rispondere con maggiore precisione se sapessi il presupposto di questo tipo di ripartizione, che non è quella prevista dalla legge. Ah, ecco. Mm. La legge dispone, come ha già anticipato questo radioascoltatore che ci ha interpellato, che viene effettuata esattamente come per le scale. La giurisprudenza ha riportato l'ascensore equiparandolo totalmente alle scale, quindi la ripartizione relativa per metà in relazione all'altezza, per metà in relazione ai millesimi. Il regolamento di condominio sul punto può però apportare delle modifiche, e queste modifiche sono da considerarsi correttamente valide se è il regolamento che lo impone, oppure se per esempio questo criterio di riparto ormai è da tempo immemorabile che viene utilizzato ma nessuno si è lamentato sul quindi punto, mi faccio però, capire, ecco, la quota dell'ascensore si paga, me lo risintetizzi di nuovo? Sulla base analogamente a quanto viene per quanto riguarda le scale, con un calcolo che viene impostato per metà in relazione all'altezza dell'unità immobiliare che si deve conteggiare e per metà con riferimento ai millesimi. Ma mi pare che il caso di Giuseppe fosse questo, mi scusi ma lo voglio risentire. Giuseppe, non paga così lei? Siccome le tabelle mie sono state fatte nel 1976 e furono fatte solo in base all'altezza, l'amministratore tiene presente di quell'affare lì. Certo, allora che cosa converrebbe fare per sanare questa situazione, avvocato Ferrarese? Ripeto, intanto andare a controllare che non sia regolamento di condominio imporre questo tipo di riparto, di conteggio. Questa circostanza non ci è chiarita. L'articolo 1124 del codice determina altri criteri. Perfetto, Giuseppe, ci scriva se vuole, gireremo il suo caso appunto in maniera più completa all'avvocato Ferrarese, che sicuramente ci aiuterà. Eccoci ritrovati in diretta alla riforma del condominio, quarta puntata. Oggi parliamo della revisione delle tabelle millesimali quando necessario, che maggioranza è necessaria, e parliamo anche di nuovo di un tema che abbiamo già affrontato spesso ma è sempre attualissimo, il tema del ruolo dell'amministratore di condominio, la durata dell'incarico, il suo compenso, i suoi compiti e quant'altro. 800 24 00 24, questa è una nuova puntata realizzata in collaborazione con l'ANACI, l'associazione degli amministratori di condominio, e con noi questa mattina l'avvocato Enzo Ferrarese e il dottor Fabio Gerosa. Tra l'altro vi ricordo che lunedì prossimo, per tutte le domande alle quali oggi inevitabilmente non riusciremo a dare risposte, il Sole 24 Ore pubblica una guida alle risposte ai lettori proprio sui temi più caldi della riforma, per cui non perdete questo numero. Volevo ancora fare una precisazione sul tema della revisione delle tabelle millesimali, perché avvocato Ferrarese, c'è qualche ascoltatore che dice: ma siete proprio sicuri che sia necessaria l'unanimità per la revisione dei millesimi? E questa è una delle grandi novità della riforma del 18 giugno. Lo ribadiamo. Siamo assolutamente sicuri. Siamo assolutamente certi, guardi, siamo la norma è chiara. Siamo sicuri, perché questo è quanto riporta testualmente l'articolo 69, mi pare. L'articolo 69 delle nuove disposizioni di attuazione, e testualmente dice: tutti i valori possono essere rettificati o modificati anche nell'interesse di un solo condomino con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 secondo comma, che è quella che rimanda alla maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio. Comprendo quello che è lo sgomento tra virgolette che può avere l'utente, il condomino, perché in verità fino all'altro ieri tutti quanti eravamo stati orientati dalle sezioni unite di Cassazione, ripeto, che nell'agosto del 2010 avevano viceversa indicato come necessaria la unanimità dei consensi per poter giungere alla modifica delle tabelle millesimali. Benissimo, torniamo adesso invece col dottor Fabio Gerosa alla questione dell'amministratore. Le sottopongo il caso di Margherita dalla provincia di Pisa. Buongiorno Margherita. Buongiorno e grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Il mio condomino è retto da un amministratore privo del titolo di studio. Ora, ultimamente lei ha mandato, scritto piccolissimo in una lettera, attività svolta in conformità a quanto stabilito dalla legge 4 del 14/1/2013, Gazzetta Ufficiale 26/1/2013. Per me è arabo, io ho comprato tutti i vostri inserti. Anche per me Margherita, però vediamo se ha ottemperato a qualche disposizione di legge informando i condomini appunto di rispettare quantomeno questi termini. Dottor Gerosa, mi traduce in termini semplici quello che ci ha detto Margherita. Intanto ecco, che tipo di titolo di studio deve avere l'amministratore? Allora, secondo l'articolo 71 71 bis delle disposizioni di attuazione codice civile di avere almeno un diploma di scuola secondaria superiore, a meno che sia un amministratore interno al medesimo condominio. Ecco che può essere anche, che si può verificare anche una situazione di questo tipo, poi magari l'affrontiamo. Assolutamente sì, può avvenire. Per quello che riguarda alla domanda della radioascoltatrice, invece l'amministratore si è comportato correttamente. C'è questa legge meno conosciuta della 220-2012 che riguarda la riforma del condominio, la legge 4 riguarda invece il riconoscimento di fatto delle professioni finora non riconosciute, secondo un sistema duale studiato dal CNEL, dove c'erano da una parte una contrapposizione tra le professioni con albo, tipo gli avvocati, e quelle libere, tipo l'operatore sciazzo o appunto l'amministratore di condominio. E c'è un obbligo in tutta la corrispondenza che c'è tra l'amministratore e terzi o condomini, fornitori, eccetera, di indicare che si svolge l'attività professionale secondo il rispetto di questa legge 4 del 2013. Dottor Gerosa, prima lei ci ha spiegato come, appunto, sulla base delle disposizioni della riforma, adesso l'amministratore di condominio sia tenuto a tenere e a compilare correttamente l'anagrafe condominiale, ma questo non è solo l'unico nuovo registro che l'amministratore è tenuto a compilare, perché la riforma ne ha introdotti altri tre. C'è il registro dei verbali delle assemblee, il registro delle nomine e della contabilità, ma in realtà credo che questi siano tutti, come dire, archivi che già un amministratore era tenuto a compilare, appunto, e ad aggiornare. Che cosa cambia concretamente? Di fatto c'è una regolamentazione della tenuta di questi registri. E ritorniamo sempre sull'articolo 1130, per cui il registro dei verbali di assemblea già c'era e va soltanto annotato, secondo il nuovo tessuto normativo, anche le assemblee dove non si raggiunge il quorum per la costituzione di assemblea. C'è un obbligo nelle delibere di indicare le brevi dichiarazioni rese dai partecipanti che ne abbiano fatto richiesta e c'è anche un altro obbligo, che è quello di allegare il regolamento di condominio al registro dei verbali. Successivamente poi è interessante notare, ed è una novità molto importante nel testo appunto della riforma, che l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile prevede la facoltà per l'amministratore di fissare più riunioni consecutive, convocando attraverso un unico avviso gli aventi diritto. Quindi qualora le questioni non si concludano pacificamente, esatto, aggiungerei, sì, perché è la questione più frequente, allora piuttosto che mandarla alle calende greche, come si dice, portare la riunione fino alle 3 del mattino e magari inutilmente, in realtà c'è facoltà da parte dell'amministratore di convocarne qualcuno in più. Esatto, e parliamo di amministratore manager, perché poi l'amministratore deve avere la sensibilità di prevedere una durata, come diceva correttamente lei, dottoressa Rosciani, di un'assemblea che abbia una durata troppo lunga, per cui per focalizzare l'attenzione dei condomini e dei partecipanti al condominio forse è necessario convocare più riunioni consecutive. Questa novità comunque richiama una sentenza della Cassazione addirittura risalente al 1988, che aveva previsto appunto questa novità. Il registro delle nomine invece che cos'è? È un registro nuovo che deve contenere in ordine cronologico le date di nomina e revoca di ogni amministratore e anche eventuali estremi del decreto nel caso, ad esempio, di nomina di un amministratore giudiziario. Quello ulteriore è quello relativo alla contabilità, che deve contenere in ordine cronologico ogni singolo movimento in entrata e in uscita, da registrare, e qui abbiamo un'altra novità, entro 30 giorni dalla manifestazione contabile. E insomma, tutte novità molto, molto importanti che vedo responsabilizzano molto anche l'amministratore, dottor Gerosa, mi sbaglio? Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti oggi è imprescindibile la nomina di un professionista formato ed informato. Ritorniamo alla proprietà e alle tabelle millesimali. Sentiamo Marco da Roma, che vorrebbe installare un impianto fotovoltaico sul tetto, ma lui dice: quanto mi posso allargare? Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie dell'introduzione. Molto semplice la domanda. Ho deciso di fare un impianto. Leggendo la nuova legge non riesco a capire se mi basta fare una semplice comunicazione, quindi non rispettare i millesimi, oppure devo fare una comunicazione di inizio lavori comunque considerando la parte che mi spetta, certo, in millesimi. Mm. In più, la seconda domanda è: se dovessi fare un impianto dove vado su aria, nel senso mi faccio una struttura che va sul terrazzo, quindi comunque la gente può camminarci sotto, viene considerata anche quella in millesimi? Mm-hmm. Marco, un bel caso il suo, avvocato ferrarese. La appassiona la situazione di Marco, che vuole installare questi impianti. Lui si vuole prendere un sacco di spazio, dice, ma insomma, quanto intanto devo comunicare a tutto il resto del condominio e quanto, certo, mi posso prendere? Certo, intanto è obbligatoria la comunicazione, questa è una di quelle, tra virgolette, innovazioni individuali virtuose, cosiddette, vale a dire quelle che sono consentite al condomino nel rispetto di quello che è l'articolo, che pur sempre rimane un capisaldo in materia condominiale, che è l'articolo 1102. Per quanto riguarda la preoccupazione dell'ascoltatore in ordine alla variazione delle sue tabelle millesimali, questo non si pone, perché la nuova legge, appena entrata in vigore, impone che vi sia una modificazione quantitativamente apprezzabile in termini di modificazioni estensive o riduttive superiore a un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare di cui si tratta. Quindi, traducendo in termini semplici, traducendo, escludo sinceramente che nel caso prospettato da questo radioascoltatore vi sia una modifica delle tabelle con riferimento, perfetto, alla unità abitativa. Molto bene. Lello dalla provincia di Chieti, invece lei ha qualche problema con l'installazione dei cancelli? Esattamente, salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Devo segnalare questo a dell'incredibile, perché 2 anni fa è stato deciso di installare dei cancelli in base al fatto che c'è un parcheggio di 10 condomini sul retro, onde evitare, diciamo, ingressi di furfanti o insomma non voluti, non ben accetti. Allora, che cosa è successo? Che l'amministratore, in base alla diciamo alla maggioranza, ha deciso di applicare valori millesimali. Pertanto io ho dovuto pagare di più rispetto agli altri, però non capisco per quale motivo i posti macchina, che ne sono 10, sono stati ripartiti per 10, e io che ho la tabella millesimale più alta rispetto agli altri, in pratica sono stato penalizzato. Perché? Perché si presumeva che io dovevo avere almeno diritto a 2 posti macchina, cosa invece non è stato così. Aspetti lì, Lello, che io sono un po' confusa, vediamo se per l'avvocato ferrarese è tutto chiaro, ha bisogno di altre specificazioni. Avvocato, è tutto chiaro? No, direi che è abbastanza chiaro. È chiaro? La ripartizione delle spese nell'installazione di un cancello, anche di un sistema automatizzato di chiusura del cancello, è correttamente applicata per valore millesimale. Questo perché il cancello, peraltro, ha una funzione di custodia e di conservazione delle parti comuni dell'edificio, oltre che delle proprietà individuali. Per quanto attiene viceversa alla suddivisione dello spazio cortile per l'utilizzo per lo stazionamento delle autovetture, il problema è un pochino più complicato, perché in verità il cortile condominiale non potrebbe essere utilizzato per suddivisione a stalli per le autovetture se non consente l'attribuzione paritaria a ciascun condomino. Quindi se almeno un condomino, basta che un solo condomino sia posto al di fuori della possibilità di parcheggiare la propria vettura, ecco che questa destinazione non è consentita. Ma in questo caso non è possibile applicare il criterio millesimale, per cui mi dispiace dover andare contro quella che è la legittima aspettativa di revisione del radioascoltatore, ma l'amministratore ha agito correttamente. Eccoci ritrovati in diretta, ritorniamo al tema della gestione del condominio e tutti gli adempimenti in carico all'amministratore. Dottor Gerosa, direttore Centro Studi Anaci di Roma, c'è Giuseppe, un ascoltatore che ci scrive peraltro spessissimo, noi lo salutiamo cordialmente, e racconta la sua situazione. In una costruzione di circa 90 appartamenti, quindi qui abbiamo un complesso, di cui 80 invenduti e quindi a carico del costruttore, ad oggi non c'è ancora un amministratore. Nel regolamento di condominio, ci racconta Giuseppe, c'è un articolo che esenta l'impresa dal pagamento delle spese ordinarie per gli appartamenti invenduti. È un'esclusione a cui ci si può opporre? Chiede Giuseppe. E come deve essere gestita la ripartizione delle spese ordinarie e comuni in un caso come questo? Beh, è un caso molto complesso diciamo che la nomina dell'amministratore ci deve essere, indipendentemente da ciò che dispone il regolamento di condominio, per cui l'amministratore deve essere nominato dall'assemblea e poi c'è anche un obbligo di contribuzione per le quote condominiali. Quindi questi 10 proprietari che abitano già in questo edificio, in cui in gran parte c'è in venduto, hanno la titolarità per costituire un'assemblea e nominare un amministratore. Esatto. Si parla di oltre 8, mentre prima nel vecchio tessuto normativo si parlava di oltre 4, adesso oltre 8, però siamo nei numeri. Certo. Per cui devono nominare l'amministratore, chiaramente con tutti i requisiti dell'articolo, come avevamo accennato prima, 71 bis delle disposizioni attuazione codice civile. Ci vuole anche l'accettazione della nomina da parte dell'amministratore, per cui è consigliabile che l'amministratore sia presente in assemblea, altrimenti scatta la nullità della nomina. Tra l'altro, mi scusi se la interrompo, perché c'era questa curiosità che mi veniva: se qua non c'è un amministratore, non c'è mai stata un'assemblea, chi ha redatto questo regolamento di condominio che peraltro esenta l'impresa dal pagamento delle spese ordinarie per tutto l'invenduto? C'è la presunzione, chiaramente iuris tantum, perché non abbiamo la prova concreta, che sia stato lo stesso costruttore. Per cui chiaramente se la fa e se la disfa da solo lui, insomma. Però insomma questi condomini potrebbero opporsi a questa situazione. Cosa devono fare quindi? Diciamo indire l'assemblea, nominare il legale rappresentante e di fatto predisporre un preventivo di spesa con la ripartizione millesimale, come dicevamo prima, e richiedere le spese a tutti quanti. Quindi è una situazione sicuramente da sanare. Giuseppe, se ha bisogno di una consulenza un po' più specifica, ci scriva che le mettiamo volentieri a disposizione gli esperti di ANACI. Sentiamo appunto Elisabetta, l'avevo preannunciata prima. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io ho un appartamento in un condominio di 5 piani, qui al piano inferiore, più il piano terreno, esistono 4 negozi. Per quanto riguarda la tabella millesimale, è stata fatta nel 1961. Ma sono credo tutte molto vecchie nel nostro patrimonio edilizio. E quindi diciamo che non, per quanto riguarda le spese di ascensore non sono previste i millesimi per la proprietà di questi negozi. Finché sono state spese soltanto di manutenzione ordinaria, le abbiamo sopportate tutti, escluso i negozi. Ma se dovessimo cambiare l'ascensore o cose molto più importanti, ho sentito dire che riguarda anche la responsabilità civile dei proprietari di questi negozi. Seconda cosa, nel regolamento condominiale è previsto che, dato che esistono 6 garage sotto il cortile, di cui uno è mio, per quanto riguarda il rifacimento del cortile, il 30% va ai proprietari dei box e la differenza va agli altri, la differenza la si spalma su 1000 millesimi. Il problema sorge perché a questi box non si era dato, ad esempio, una quantità di millesimi, perché erano stati costruiti in epoca successiva, quindi non fa parte dei 1000 millesimi. Cosa succede? Che in un'assemblea di qualche anno fa avevamo stabilito che dovevano pagare un tot per le pulizie, eccetera. Adesso, visto che c'è il discorso dell'ascensore, il discorso dei box, il rifacimento, come possiamo muoversi? È tutta una revisione complessiva da fare, quindi, Isabella, della situazione del suo stabile. Sentiamo che cosa ci suggerisce l'avvocato ferrarese, cominciando con la questione dei negozi. Elisabetta chiede se debbono concorrere, per esempio, alle spese per il rifacimento dell'ascensore. Ma dunque, il regolamento di condominio, la radioascoltatrice ha fatto riferimento al regolamento di condominio. Il regolamento di condominio è una sorta di legge speciale rispetto a quella del codice civile, salvo che in determinate materie, ove il codice civile dice espressamente, l'ultimo comma dell'articolo 1138, che il regolamento di condominio non può essere contrario a determinate disposizioni di legge. In materia di ripartizione delle spese, il regolamento di condominio è libero di statuire quanto meglio ritiene, per cui con riferimento alla esclusione totale da parte dei proprietari dei box alla partecipazione delle spese di ricostruzione dell'ascensore, ci si deve attenere a quello che dice il regolamento di condominio. Per quanto riguarda la seconda domanda, quindi la seconda prospettazione, sostanzialmente la risposta è la medesima, perché ancora una volta, se non ho inteso male, la radioascoltatrice ha fatto riferimento al testo del regolamento di condominio. Mm-hmm. Allora, sono situazioni veramente molto complicate e qua, anche se ci mettiamo con tutta la buona volontà nel tentare di capire la legge, siccome è tutto originato anche da quanto stabilisce il Codice Civile, non è così facile orientarsi, per cui è meglio appunto rivolgersi evidentemente a dei professionisti. E io ringrazio gli amici di Anaci che ci hanno aiutato in queste quattro trasmissioni, ma ci ritorneremo sicuramente su questi argomenti che sono sempre molto come dire, utili a vivacizzare le nostre trasmissioni. Ci ritorneremo appunto prossimamente, quindi volevo ringraziarli per la loro collaborazione e per averci aiutato ad orientarci nella riforma in questi quattro giovedì del condominio. Quindi grazie al dottor Fabio Gerosa, direttore del Centro Studi Anaci di Roma. A presto. Grazie a voi. Grazie anche all'avvocato Enzo Ferrarese, a presto. Grazie a voi e grazie per aver dato voce ad Anaci. Grazie anche a voi. Naturalmente ci ritorneremo su questi argomenti e io dico anche che potete continuare a scriverci, se volete, delle mail a salvadanaio@radio24.it per tutti coloro che oggi non abbiamo accontentato, ma come avete avuto modo di capire ogni caso prende molto spazio, perché ognuno è sempre molto complicato, e ogni condominio ha davvero vita a sé. Grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Gianmarco Ferronato in assistenza tecnica. Noi ci risentiamo domani è venerdì, ho sempre qualche confusione a ricordarmi le giornate. Buona giornata a tutti.